sera. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Puntualissimi, in questo martedì 21 agosto 2012, buonasera dalla voce di Agostino Spolavore e buonasera anche dal compagno fedele, ormai, insomma, Maurizio, ci sei. Buonasera Agostino, buonasera ai nostri ascoltatori. Benvenuto anche a te, ci ritroviamo a distanza di qualche giorno. Sì, da giovedì mi piace. Da venerdì, perché abbiamo fatto una settimana pienissima. Abbiamo monopolizzato Blu Radio Veneto. Esattamente. Con le nostre voci. Allora, dicevo, buonasera da Blu Radio Veneto, questa è una serata rock al femminile, ma ne parleremo tra qualche istante. Prima, come di consueto, diamo i nostri dati, cioè quelli per mettervi in contatto con noi, cioè il nostro numero telefonico in studio è lo 049 875 6423, mentre per quanto riguarda gli sms vi ricordo il 346 23 20 033. Le nostre frequenze sono 88.700 e 94.600 MHz in modulazione di frequenza. Il nostro sito, dove ci potete ascoltare in streaming, e cioè www.bluradioveneto.it, sulla sinistra, nella home page, c'è scritto Ascoltare Radio. Cliccando lì ci sentite 24 ore su 24 continuamente, cioè in diretta, sempre, sempre, comunque, con la bella musica. E poi ancora le nostre pagine su Facebook, è semplicemente Blu Radio Veneto, l'altra è Blu Radio Veneto Rock Wave, gestita dal nostro direttore artistico, che è arrivato in questo momento, lo salutiamo caramente. Ciao Alberto, ben ritornato qui a Blu Radio Veneto. Se vuoi venire a salutare ci fa piacere, almeno ci sentiamo a voce. I tuoi ciao a tutti, ciao ciao. Alberto Pesco, che gestisce appunto la pagina di Facebook Blu Radio Veneto Rockway, dedicata interamente alla musica rock e la sua classifica di musica rock. Credo di aver detto tutto, ma adesso diamo spazio a queste scatenate fanciulle, donne, ragazze, insomma, rockettare, posso chiamarvi così? Ciao! Ciao. Allora, sono le Misteriche, che poi mi spiegherete perché avete questo nome, che si può, insomma, fraintendere anche un po', siete proprio così tanto isteriche. Sì. Soprattutto quello. Facciamo le dovute presentazioni e poi ci inoltriamo nella vostra musica. Allora, abbiamo Stefania Brugnoni al basso. Ciao. Abbiamo Simona Tarantino alla batteria. Ciao a tutti. Monia Mosti alla voce. Ciao ciao ciao ciao. Emanuela Galasso alla chitarra. Ciao elettrica. Ciao. Allora, benvenuti a Blu Radio Veneto, ragazze. Grazie. Grazie. Grazie. La pronuncia esatta è Misteriche, perché io ho sentito un'intervista di una radio di Firenze in cui avete... No, la pronuncia è... Com'è la pronuncia? Misteriche. Perfetto. È la Misteriche. Finale che Misteriche, ingane. Pronuncia giusta. Le Misteriche, da dove sono sviluppate? Il progetto dove è nato? Da allora. Simona e da... E da Stefania. E da Stefania, quindi basso e batteria. E batteria, sì. Loro due... Adesso sto parlando alla vocalist, sono... Esatto. Monia. Ciao, sono Monia. Ciao Monia. Loro due diciamo che sono state il perno fisso del cambio di line-up del gruppo in quanto l'hanno fondato. Poi dopo diverse ricerche hanno trovato, perché io sono l'ultima che sono arrivata, hanno trovato Manuela Galasso alla chitarra. Alla chitarra! E poi nulla, sono arrivata io che l'ho un po' tutte sconvolte. Hai chiuso il cerchio. Esattamente, ci mancava la ciliegina sulla torta. Oh. Ma mi diceva Simona, che alcuni pezzi del disco erano già costruiti prima che arrivassi te. C'era già un progetto, c'era già qualcosa di pronto, non è così? Sì, diciamo che... qualche accenno, qualche costruzione, qualche base del progetto era già in fase. Sì, sì, quello sì. Poi, ovviamente, quando le cose vengono portate nel gruppo vengono pressoché stravolte. Quindi diciamo che una cosa che esisteva già poi alla fine viene completamente sconvolta. Quindi diciamo che fondamentalmente la vecchia radice... se così la vogliamo chiamare, alla fine non c'è. Sì, io ho visto qualche video, qualche esibizione vostra live, siete scatenate, cioè il rock innanzitutto. In questa dimensione, stasera siamo in dimensione pseudoacustica, posso dire così? Pseudoacustica. Pseudoacustica, sì. Però il rock è nel sangue. Ci cioè... hanno legato alla sedia per tenerci fermi, ecco, è l'unico modo per farlo. Però c'è il rock innanzitutto nel vostro progetto, anche se nel disco è un po' variegato, ci sono poche cose musicali, cioè, pardon, ci sono delle derivazioni sia musicali rockettare sia musicali folkeggianti, un po' più pop. Sì, diciamo che in questo album noi abbiamo voluto sperimentare, in quanto nel gruppo convivono più anime. Abbiamo dalla chitarrista che viene da 10 anni di heavy metal. E si vede, si vede. Si vede, si vede. A, alla cantante, ovvero io, che comunque essendo anche la più giovane del gruppo, quindi è nata negli anni 80-90, quindi nel periodo in cui esisteva già il boom della musica pop. Stefania e Simona, che sono un attimino più cantatoriali, e quindi insomma abbiamo provato a fare questo mix ed è uscito un disco dove ogni canzone è diversa dall'altra. Questo da una parte ci viene... un vantaggio. Esatto. Può essere un vantaggio in quanto possiamo racchiudere più gusti musicali delle persone. Dall'altra parte può essere anche uno svantaggio, perché purtroppo ci sono persone che magari ascoltano solo un determinato tipo di musica. Giusto, una cosa, però si deve fare un tentativo. Il tentativo era questo, di allargare l'orizzonte. Esatto. E l'orizzonte è stato allargato con questi tempismi imperfetti. Il titolo del vostro disco, autoprodotto al 100%, avete fatto tutto voi. Esatto, è registrato in casa, praticamente si può dire. È completamente autoprodotto. Diciamo che quel disco, la sala di registrazione l'ha vista giusto per fare il mastering. Ma a me, voglio sapere una cosa, musicalmente i pezzi come sono stati costruiti? Da Stefania, da Simona, e poi le altre due ragazze sono intervenute, o i pezzi sono stati fatti assieme, direttamente, come gruppo, proprio gruppo al 100%? Allora, diciamo che l'idea di solito viene da una persona. Poi viene... Il riff chi lo ha fatto? L'ha fatto Stefania il riff? No, di solito il riff lo fa la chitarrista, la base armonica, melodica la fa il basso, quindi ognuno poi al suo compito ci mette del suo, no? Rispetto al compito che ha nel gruppo, quindi ovviamente magari un assolo viene fatto da Manuela, sicuramente comunque con un metodo molto democratico, nel senso che viene presentato al gruppo, se ne discute, se ne lavora, magari in un riff di Manuela, la batterista che è Simona, magari ci sente qualcos'altro, si prova, insomma si stravolge un pochettino, quindi l'idea parte dal singolo. Però poi il lavoro e lo sviluppo dell'idea viene fatto da tutto il gruppo. Ok, cosa dici, Agostino? Facciamo, presentiamo, apriamo la finestra come solo sì, solito noi facciamo. Io porto già dei saluti a queste rocchettare toscane, come bisogna sottolineare, che sono... Dove siete? Proprio tutte di... Due di Livorno e due di Pisa? No, allora abbiamo due pisane. Allora, la bassista Stefania e la batterista Simona sono di Pisa. La chitarrista è di Livorno, quindi c'è un derby in casa. Ma vince Livorno, io mi tiro fuori perché... Sei di Siena? No, sono di Massa. Ah, Massa Carrara. Esatto. Nessuna che è di Siena, insomma. No, nessuna. Non siete reduci dal Palio, allora, praticamente. No. Va bene, dicevo, vi porto i saluti di un ufficio stampa, cioè l'AGI di Lerna in Liguria, nella voce e nella persona di Antonella Gucci, che vi sta ascoltando. Uella, ciao Antonella! Ciao! Bene, ci ascoltiamo allora la canzone. Cosa avete scelto? Vi ricordate? Beh, iniziamo con una canzone che dà titolo all'album, Tempismi Imperfetti. No, avete scelto tutto al contrario, se non sbaglio. Ah, o vuoi... Se no facciamo prima dal... Come dal vuoi disco, tu, dal disco. Dal, okay. disco, dal, disco. Dal disco, allora... Se vuoi suonare dal vivo, no, allora dal decidiamo, vivo. Dal disco tutto al contrario. Infatti, tutto al contrario. Mare bestia o messia, veramente schiavo di un mondo disumano, e tutto va al contrario. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Allora, questa canzone. Beh, a chi la facciamo spiegare? Tutto al contrario. A Simona. Oh, Simona. Hai sorteggiato? Gli ho passato la patata bollente. Vabbè, in effetti, come ha detto prima Monia, a livello di idee sono singole, poi elaboriamo insieme tutto il contesto. È nata in una sera dove c'è stato un umore particolare, in veramente poco tempo ho buttato giù qualcosa di sentito proprio, tutto al contrario, un po' come è stato tanto del nostro percorso, abbiamo fatto tante anche esperienze, un po' tutta alla rovescia, scontrandoci un po' con realtà difficili, una società è un po' generale, un po' introspettiva, esterna, tante cose dove ognuno poi può ritrovarsi e interpretarla come più vuole, però fa parte tanto di noi perché veramente in tante situazioni, dalle cose più banali del quotidiano, abbiamo fatto veramente tante cose un po' tutto al contrario. Musicalmente io, secondo me, adesso vediamo se siete d'accordo, il punk che si rincorreva con il pop, a mio parere. C'è una dose punk, anche se la Manuela è metallara, adesso parliamo un momento con la Manuela che è qui davanti. No, ora metallara. Ex metallura. No, più che altro mi piacevano anni 80, anni 70, a volte anche 60. No, io ci risento un po' di funky, è abbastanza funkeggiante. Sì, anche quello perché c'è una specie di tastiera, un giro che assomiglia a una tastiera, un po' funky, però io ci sento anche leggermente il punk, soprattutto nel modo di cantare. Nel modo di cantare? Dai, dimmi qualcosa. Dimmi qualcosa. Beh, questo lo reputo un complimento, in quanto l'aspetto punk nel mio modo di cantare ancora non me l'avevano fatto notare. Quindi lo reputo un complimento, perché per una cantante avere... subire tra virgolette tanti aggettivi musicali è un subire positivo. Positivo, sì, infatti, cioè, ti ringrazio per il complimento. Sì, diciamo che comunque la voce, diciamo, viaggia sempre sul vassoio musicale. Quindi nel momento in cui la mia voce si attribuisce un aspetto punk, bisogna ringraziare soprattutto il tappeto musicale. E su che vassoio porti la tua voce quando ti esibisci dal vivo con le tue colleghe? Perché io ho visto i spezzoni dei video dal vivo che avete fatto. Non è che tirate indietro l'acceleratore, anzi, premete sull'acceleratore. Ci piace sul vassoio della passione, dell'unione. Quindi nel momento in cui si fa qualcosa con passione, si va avanti. Perché dobbiamo dire, cari ascoltatori, che stasera siamo in dimensione pseudo-acustica. Sì, infatti stiamo un po' soffrendo sulle sedie. Ho capito. Bene, però un pezzo... No, devi parlare davanti. Anche interagire con il pubblico, ci piace molto interagire con il pubblico, e quando troviamo un pubblico che risponde ci divertiamo tantissimo, speriamo di far divertire e niente, torniamo a casa soddisfattissime, anche se sono faticose, però... Sì, anche perché purtroppo siamo in un periodo in cui la musica dal vivo viene veramente sottovalutata, quindi quando si trova un pubblico che risponde... tiriamo fuori ancora di più la nostra pazzia. Parliamo un momento con la bassista, visto che questo è un pezzo pseudo funky. Vai, Agostino, vai. No, volevo chiedere a Monia, ma perché vi considerate così pazze? Perché tu lo sottolinei spesso questo fatto di essere così un po' isteriche. Posso tirare? Cioè, la media è dai 26 ai quanti, Simo? 38. Ecco, non lo volevo dire per rispetto, potevi levarti un paio d'anni. E niente, quattro donne così, di solito sono a casa a cudire figli, a lavorare. Noi siamo a girare tutta l'Italia con gli strumenti, con un 40 gradi, 45 gradi, penso che il livello di pazzia è notevole. Beh, sì. Ma più che pazzia penso sia la passione per la musica, no? Esatto, infatti... Fondamentalmente è questo che ci porta avanti, nonostante porte chiuse che purtroppo per la gavetta bisogna anche trovare. Sì, ma non riguarda... Anche tante porte aperte, non solo, soprattutto porte aperte, sennò a quest'ora non saremmo arrivate neanche qui da Però voi a Padova. È generalizzata la cosa, eh? Cioè non siete solo voi che avete porte chiuse, cioè un po'... Sì, no, quello ci mancherebbe. E poi un po' pazze perché... Io tiro fuori il mio narcisismo. Nessuno ci eguaglia. E quindi siete decisamente punk per questo, assolutamente punk, e questa è la, dimmi, la direzione. La direzione è sempre questa, il punk porta anche questo. Anche se questo pezzo, voglio ritornare a parlare con lei. Sì, perché sennò sembra che siamo in tre. Esatto, vieni, vieni avanti verso il microfono. Eccomi, eccomi. Manuela parlava del pezzo funky, è vero, era a determinati avvicinanze alla sonorità funky. Cosa ci hai messo nel basso in questo pezzo? In questo pezzo... Visto che il basso è fondamentale nella tipologia funky. Ci ho messo un basso un po' particolare, molto slengato, molto struscia molto sulle corde. Sì. È un modo un po' che mi sono un po' inventata io nel suonarlo. Diciamo che ho fatto un po'. Mi sono dato un po' la fantasia. Però questo pezzo ho partecipato un pochino meno rispetto agli altri. È stato un pochino più lavorato dalla chitarrista e dalla batterista. Quindi l'idea è partita da Manuela? No, l'idea è partita dalla batterista, da Simona. Simona. E poi è stata sviluppata da Manuela. Ho capito. Io ho contribuito un po' nella melodia insieme alla cantante Monia. Però diciamo che più perché dici la cantante Monia? Perché sto cercando di far imprimere alle persone che ci stanno ascoltando che la cantante si chiama Monia. Ah, okay. Perché non è vero? Perché non ti conoscono ancora bene. Non è vero, secondo me, perché quando non ci sono hanno un'altra cantante. Anche per questo. No, a parte gli scherzi, diciamo che questo pezzo è stato sviluppato principalmente da Simona e da Manuela. Io e Monia abbiamo contribuito un po' meno, però gli altri pezzi non sono così, insomma, c'è chi ha collaborato, chi ha contribuito di più e chi ha contribuito di meno. Questo pezzo è più Manuela e Simona. Adesso Agostino, come contribuiscono adesso le ragazze? Suonando? Suonando. Vai, vai allora. Cosa ci fate ascoltare adesso? Ecco, come già anticipato prima, presentiamo il brano che dà il titolo all'album, Tempismi Imperfetti. Ok. Qualcosa di te, e intanto trovi un'assurda tranquillità in una città che non è tua. Sentendo la svanire appena un treno parte, e tu ci gridi dentro la voglia di ricominciare. Ricordo che in fondo sono solo parole, sì, solo parole. La agonia è una follia, lo so, ho secondi più lenti dei tuoi, e così mi rubi sogni e sogni, ma sono solo tempismi imperfetti, imperfetti. Ritorna come fosse passato un attimo in un secolo, e dimmi cosa pretendi Bella, a me piaceva molto il giro iniziale. Adesso mi rifai il riff iniziale, da dove è partito il pezzo, che è molto molto interessante. È proprio quello che mi ha entusiasmato, che mi ha colpito immediatamente. Questo è la base, il traino assolutamente del pezzo. È così, ragazzi, siete d'accordo oppure no? Sì, diciamo che rimane in testa. Rimane in testa immediatamente. Quello è l'importanza della title track, visto che questa è la title track. Rimane in testa immediatamente. È molto accattivante, anche se è una ballad pop, possiamo definirla così. Esatto. Tra l'altro ne è uscita una ballata, diciamo, una ballad pop, non volendo, perché... Che l'idea era diversa? Iniziale? Era un po' più rockettara? È stato strano come è uscita, come è venuta al mondo questa canzone, nel senso che ne parlo io perché comunque l'idea di questa canzone... Il riff l'ha fatto Manuela, però. Esatto, sì. La canzone è tua, amore. È uscita spontanea, una chitarra. La cosa interessante di questo pezzo è che è un 7/8. Per quelli che non sanno che cos'è. Per quelli che non sanno cos'è 7/8. Spiega un momento. Lo spiegherà la batterista. Vai, Simona, spiega te cos'è. Non andiamo nel tecnico, pensiamo solo al significato della canzone. È una canzone che, cioè, nonostante che l'ha scritta comunque Monia, e io ci ho messo nel mio col riff, e la bassista Stefania, insomma, anche lei ci ha messo del suo con gli arrangiamenti di, insomma, di basso e tutto. Comunque ci è piaciuta tantissimo, perché ci rivediamo un po' tutte nelle parole che ha scritto la cantante per dei nostri vissuti. Sì, vissuti. Sono tutte esperienze, pensieri, sentimenti, quindi vita vissuta sulla nostra pelle. Esatto, emozioni vissute. Esatto, tutte le canzoni sono interamente autobiografiche, quindi dove tutte ci rispecchiamo, perché tutte in un periodo magari diverso. Ecco, da qui nasce anche il titolo Tempismi Imperfetti, perché comunque sono tutte canzoni in cui ci ritroviamo completamente, anche se i periodi magari in cui abbiamo passato determinate esperienze sono state a livello di tempistiche diverse, però alla fine hanno creato qualcosa, un tempismo imperfetto ha creato qualcosa di perfetto, di unione. Ma chi è che scrive principalmente i testi della vostra canzone? Ognuna c'è la sua, o c'è qualcuna che scrive maggiormente rispetto a un'altra, insomma? Ma sempre per l'aspetto di democrazia, sì, magari c'è in un pezzo qualcuno che tra virgolette prevale, poi alla fine non ci piace nemmeno utilizzare questo. No, no, ma non è che uno deve essere superiore a un altro in questo senso. Anche, magari a volte capita che in una band magari qualcuno si dedica più alla musica, altri invece ai testi, altri invece agli arrangiamenti o cose di questo genere, insomma. Cioè, sì, c'è anche questo discorso, però per quanto riguarda i testi delle canzoni ognuno ha messo del suo. Come diceva prima Monia, siamo molto democratiche su questo, però ognuna, per dire, a Monia è venuto a mente Tempismi Imperfetti, ha preso, ce l'ha portata e noi ci abbiamo lavorato sopra. Pirati e Fantasmi è venuto a mente a me, l'ho portata e ci hanno lavorato sopra le ragazze insieme a me. Tutto al contrario, vabbè, ovviamente Stefania mi ha continuato il testo e tutto. Tutto al contrario, era partita l'idea da Simona, l'ha portata e poi l'abbiamo sviluppata insieme, anche per quanto questo discorso lo facciamo sia sulla musica, soprattutto sulla musica, ma anche per quanto riguarda i testi. Diciamo che siamo 25% di una, insomma. Sì. Giusto, siete in quattro, quindi vive e vige la democrazia, insomma, all'interno del vostro gruppo, insomma. Sì, sì, esatto. Ma c'è poi se non per niente il nostro nome è Miss Donne Isteriche, signorine, però c'è anche la componente misteriosa, misteri, certo, sì, certo. Ma soprattutto isterica. No, volevo ritornare un momento al pezzo che abbiamo fatto adesso dal vivo. Interessante anche il discorso che ha fatto Simona del stop and go, mi piace molto quello che hai fatto nel pezzo. Volutamente hai fatto un piccolo stop and go, perché lei si è fermata e poi ha ripreso il cantato, e ci sta nella ballad pop che avete inventato. E il bello che avete concluso l'album questa ballad pop. Come mai un pezzo, secondo me, da singolo l'avete messo come ultimo pezzo del disco? È perché è nato dopo o perché c'è una... No, dimmi Manuela, dimmi. Solo una frase, tutto al contrario. Leggero. Ah, perfetto, ho capito. ma bisogna capire, bisogna entrare nel, perché di solito i pezzi non vengono buttati là a caso nella scaletta, vengono messi in una determinata maniera perché l'idea parte da questo. Ho capito. Benissimo. È il mistero che è in noi, c'è anche quello. È più l'isteria che il mistero. No, però c'è proprio anche la voglia di comunque farci scoprire e conoscerci piano piano, nel senso è certo. Un evolversi in continuazione. Poi c'è un altro aspetto. Senti, tu per aver sentito Tempismi Imperfetti e vuol dire che hai dovuto ascoltare tutto l'album. Beh, questo è chiaro, beh, lo facciamo quindi sempre. Hai dovuto ascoltare tutto l'album facciamo per arrivare sempre. A Tempismi. Facciamo sempre. Quindi l'ultima canzone che dà titolo all'album di solito si mette sempre tra le prime, può creare anche curiosità. O prima e seconda di solito, sì. Esatto. Si usa questo. Invece voi volutamente avete giocato con gli ascoltatori, volete sentire l'ultimo pezzo del title track, dovete sentirli tutti. Esatto. Allora, dimmi, ti avevo interrotto? No, prego. No, stavo dicendo, visto che avete rotto il ghiaccio, facciamo un altro, siete già pronte magari? Cosa ci fate sentire adesso? Piacere della cantante che qui sento. Facciamo sentire per te. E ci ha fregato tutte. Un'altra. La scaletta si cambia sempre, continuamente. Il bello della diretta. Sì, sì. E vai così. Monia. Per una volta con la regia. D'accordissimo. Allora, per te si chiama la canzone. Sì, diciamo che può essere considerata la nostra seconda ballata. Ah, ok. Blu Radio Sera. Ormai ho mal di testa da un po', non so più dormire e non so più volare, perché mi alzo distrutta e poi penso distratta alla mia insicurezza, sempre pronta con te. Perché ho incontrato te, ho conosciuto te, ho amato te. Ma perché? Cos'è questa confusione che mi gira dentro? Sarà forse pazzia o sarà pura follia? Con te, per te. Allo specchio mentre penso non sbaglio, questa è solo paura di poter vivere ancora. Perché ho incontrato te, ho conosciuto te, ho amato te. Perché? E adesso sono sola sotto queste lenzuola e il profumo di te lo porto con me. Perché ho incontrato te, ho conosciuto te, ho amato te. Cos'è questa confusione che mi gira dentro? Sarà pura follia o sarà forse pazzia? Ma perché? Cos'è questa confusione che mi gira dentro? Sarà forse pazzia o sarà pura follia? forse pazzia, sarà pura follia. Sarà... Vai, vai. No, dicevo fino all'ultima goccia. Certo, certo. Sarà anche una ballata, però secondo me è una ballata molto scheletrica, non propriamente una ballata, ma si più avvicinava al rock un po' grunge, secondo me, più che una ballata, un grunge, più che una ballata vera e propria. Non so, questo è il mio parere, caro. No, no, ma a noi fa piacere sentire nuove opinioni. Il ritornello di ballata ce l'aveva, però poi nell'insieme era una ballata sofferta, non è proprio una ballad, si avvicina più al rock, secondo me. Ma ti ha dato l'idea di sofferenza? Sì, quando tu hai cantato, sì, in qualche momento mi ha dato l'idea di sofferenza. Bene, allora siamo arrivati all'intento. Va bene. Io l'ho sentito così, chiaramente. Allora, vi porto i saluti di Cristina Magno, io e la mia bimba vi stiamo ascoltando. Ciao. Ciao Cristina. Ciao bimba, come si chiama la bimba? Lo dice? Non lo dice, dice solo io e la mia bimba, quindi. Salutiamo la bimba allora. E Cristina, grazie. Ciao Cristina, tra l'altro una mia collega. Ah, ecco. E quindi non è solo il vostro lavoro questo, insomma. Come? Non è il vostro lavoro fare musica, insomma. Ognuno c'ha... Magari. Tra l'altro, vabbè, è stata una bella sorpresa comunque che trovare persone che ci ascoltano, anche se... Anche fuori regione, insomma, sì. Quindi anche se siamo in Veneto, sapere che qualcuno dei nostri, diciamo così, anche dalla Toscana, sì, ci segue è sempre una bella emozione, grazie. E poi saluto, penso vi stiano ascoltando, cioè c'è Molly Sbrana. Ciao Molly! Questi sono tutti i nostri fans. Beh, immagino. Poi ancora Andrea Pronzati. Ciao, okay. Ciao. E Marco Masoni. Uè, ciao Marco. Ciao Marco. E Maurizio Calzavara. Beh, sono qua. Non hanno fatto nulla, Maurizio, Beh, Marco Masoni ci ha visto crescere, quindi sì, abbiamo fatto una lunga strada, quindi sono contenta che adesso ci può sentire in radio. Diciamo che ci ha accompagnato il primo anno della nostra nascita, sì. È bello sentire che ci ascolta. Ciao Marco. A proposito del primo anno di crescita, quanti concerti avete fatto per farvi ascoltare, per farvi sentire, per farvi conoscere? Troppi. Perché troppi non sono mai troppi. No, mai abbastanza. No. Bisogna suonare sempre. Nel 2009, che credo sia stato l'anno più intenso, fruttifero, più intenso, abbiamo fatto circa una trentina di date in un anno. Quindi anche una cinquantina. Sì, no, diciamo che di quelle che... le più significative, ecco, quelle che ci hanno lasciato proprio il segno, una bellissima esperienza all'Isola d'Elba. Diciamo 2008-2009 sono stati una cinquantina di concerti. Poi stiamo iniziando ad invecchiare, è sempre più faticoso, anche perché non abbiamo rodi, siamo sempre noi che carichiamo, scarichiamo la macchina, viaggiamo, sì, sì, che ci siamo date una calmata e detto bimbe. Anzi, adesso da... Perché la chitarrista inizia a perdere colpi sulla schiena. Adesso da ottobre ricominciamo alla grande. Insomma, alla grande, perché sì, dovete anche far sentire questo disco nuovo. Sì, anche se ne abbiamo un altro in lavorazione. Però, quindi, ottimo. Quindi questo possiamo definire il disco che riprende schemi che avevate già stabilito, avevate già fatto, una specie di greatest hits per chiudere le prime composizioni vostre, possiamo definirlo così? Sì. Va bene, me la concedi sta roba? Sì, te la passo. Me la passo, ti ringrazio. Va bene, ok. 21 e 35, quasi 36 Agostino. Sì, scusami, stavo regolando un attimo il volume di Monia. Monia è una voce potentissima. Molto potente, spacchi tutto Monia. È una voce potente. Se no suonerei la chitarra. Oh, è una battutaccia. No, ascolta. Una battutaccia questa. La chitarrista fa sciopero. Ha capito? Fa sciopero. Cosa vi ha spinto ad essere questa band tutta al femminile, insomma? Non avete pensato magari di avere anche qualche intro? Tanto loro scelgano il pezzo. È stata totalmente casuale la cosa. Praticamente ci siamo trovate per caso. Cioè, io ho risposto a un annuncio su internet. Sono arrivata, erano tutte ragazze. Ho detto: ma fammi un po' provare cosa succede. O ci scanniamo subito, se no si va avanti. Ho avuto la fortuna che anche se ci scanniamo, siamo andate avanti. Quindi, beh, perché forse ci avete creduto subito, insomma. Sì, sì, penso di sì. Bimbe, voi ci avete creduto subito. Beh, sì. Io calcolando che avevo appeso il microfono al chiodo e ho risposto al loro annuncio per scherzo dopo 2 anni che non cantavo più, insomma, o ci credevo, se no non sarei assolutamente tornata. Ma venite ognuna da una esperienza diversa prima. Sì, sì, sì, sì. E tuttora portiamo avanti anche altre esperienze, comunque anche di musica diversa. Mm-hmm. Invece Simona è stato, noi siamo state la sua iniziazione. Battesimo. Con la mia batteria, sì. È andata bene l'estate del fuoco. Quindi avete, come giustamente diceva Agostino, avete dei progetti paralleli praticamente che portate ancora, che portate avanti assieme a questo progetto. Allora, per quanto riguarda te, che progetti hai? Diciamo che io, per mantenere sempre la linea di Tutto va al contrario, ho fatto prima dei progetti da solista e poi adesso mi sono fermata col gruppo. Mentre alcune di noi hanno fatto il contrario di me, quindi magari hanno iniziato col gruppo e poi adesso stanno portando avanti altri progetti. O presunte tali, cioè no, diciamo che se posso, è più un discorso anche di collaborazioni esterne, ma più per una crescita a livello proprio di sia di visuale che di tecnica, che alla fine è un orizzonte veramente infinito, non si finisce mai. E come è già stesso questo CD stesso, dove si trovano più generi diversi, è una amalgama di sì. Quindi mai fermarsi o limitarsi a una cosa soltanto, è un crescere continuo, è un continuo veramente imparare nuove cose tutti i giorni. Quindi le esperienze diverse hanno favorito anche la crescita della band. E tuttora, proprio un discorso di ampliare la visuale a livello di musica, è mai fermarsi assolutamente, in questo senso. Va bene, io direi di dare spazio ancora alla loro musica, Maurizio, cosa ne pensi? Sì, certamente. Cosa facciamo, sentire un pezzo da disco o dal vivo ancora? Beh, facciamo ancora un altro dal vivo e poi dal vivo, sì. Ci spariamo il CD. spariamo addirittura così. Il prossimo pezzo, Sola ma grande, l'hai scelto tu? Sì, ovviamente. No, perché tu, Agostino, tu non vedi, perché no, sei non vedo, di là, però dal vetro, sento. Però senti, e la Monia praticamente dà l'input a tutte le tre ragazze, no? Da proprio l'input. Infatti sento tutte le parolacce che vengono dalle altre. Un direttore è d'orchestra. È piccolina, ma ci comanda tutte. Un direttore d'orchestra. Che è l'ultima arrivata. È l'ultima arrivata. Più la, più, ma l'ultima, si contenta. Ma mica sempre gli ultimi arrivati sono... di solito, dimmi. Io ho mantenuto lineare questo verbo. Certo. I primi... Ma cosa lineare? Ora perché ora è più attiva? Sai, guarda, ti c'è abituare. Dai, ci è piaciuto anche per questo. Ogni scelta è stata ben mirata proprio per il gruppo, per quello che cercava, come sia anche per la chitarrista. Cioè, l'energia, l'iniziativa... La voglia di questo sì. Beh, l'apporto di Manuela era fondamentale. Assolutamente. Fondamentale. Al di là del pezzo, del riff, del pezzo che abbiamo scelto noi della redazione, io e Alberto, è fondamentale per la ritmica. Il basso è importante, però la sua chitarra ha un certo senso nell'insieme della costruzione armoniche vostre. È vero. Si distingue, ci mette proprio del suo, che è unico, in questo senso è proprio unico. Basta che poi se no si gasa. Ok, suoniamo allora, dai. Cosa ci fai? Sola ma grande, che è una canzone dove vogliamo esprimere il fatto che le esperienze, anche se negative, ci possono mettere in solitudine, ma ci possono anche far crescere. Ok. perdi la tua vita, andare via col vento. Ti perdi nel bicchiere di una vita frustrata, non ti rendi conto che non sei mai nata. Alzo la corrente, cosa sento adesso? Anche questa notte butti via il tuo corpo, per scappare da una madre presa da Dio, che tu vuole nel suo mondo ora in oblio. Mentirà, della pazza quando sei malata, non rimane niente di una storia passata, se cancelli la mia vita nel tuo presente, questo non vuol dire che non servo più a niente. Sussurro una canzone per andare avanti, ti vedo nello specchio e vorrei umiliarti, mi perdo nel mio vuoto, nel buio animale, se penso ad un domani incapace d'amare. Mentirà, dove sono le tue ali? Bruciate nel fuoco o perse nel vuoto. Non pensare la mia mente che sa dura di te. Dammi prova un istante, che cazzo con te, non so dell'ore dentro me. Maurizio, vai pure. Sì, è un pezzo, è un brano questo pieno di cambi di ritmo, ma un sacco di cambi di ritmo. Adesso mi spieghi tutti questi cambi di ritmo che hai fatto in questo pezzo che hai messo in difficoltà. No, per modo di dire, no, assolutamente non è vero. Lei. Vabbè, dai, cerchiamo di divertirci un po'. Esatto. Tutto troppo no, male, ma sono interessanti. A me sono secondo anche me, sì, dimmi. Appunto, il divertimento hai cambiato totalmente, cioè ti sei fermata, hai ripreso, hai girato, hai ripreso ancora, ti sei rifermata un'altra volta, un sacco di cambi, bello di direzione, perché questo l'avete proprio ricostruito sto pezzo secondo me dal vivo, avete dato una colorazione leggermente diversa. Sì, dal vivo poi tra l'altro viene qui è anche proprio fatto un ulteriore divertimento ancora di più nelle non venirci veramente mai a noia da sole, è un continuo, ma anche quando siamo in sala prove noi stesse e siamo lì a riprovare e riprovare continuamente i nostri testi, spesso il divertimento viene proprio tra la trasformare completamente quello che è già nostro e trovare ancora delle diversità nel nostro stesso, e quindi è un in mente uno nessuno e 100.000 di Pirandello, tra l'altro è meraviglioso. E secondo me lei ha cantato in modo atipico, cioè in alcuni momenti ha recitato più che cantato in questo pezzo, poi è ricontentato a cantare, ma ha recitato, c'è stato un momento in cui si è fermata e ha recitato, perché tu l'hai obbligata a fermarsi praticamente. È quello, positivo. Tra, poi sperimentare ancora nuove cose è fantastico. Poi per quanto riguarda me, devo dire la verità, lo sperimentare qualcosa di semiacustico mi ha messo curiosità, quindi durante le prove che facciamo tutte le settimane, ecco, iniziare a fare qualcosa anche di acustico ci ha fatto scoprire degli aspetti anche di noi stesse sull'acustico, che veramente quando abbiamo finito le prove abbiamo detto: cavolo, c'è ancora dell'altro. Sì, è quello. Lei, Emanuele, rideva, però adesso voglio sapere perché ridevi un secondo quando hai detto delle prove. Lei, hai fatto una risatina. Hai fatto... No, no, no, non era così. Ma semplicemente nell'ultimo mese siamo state un po', un po' più assenti, ma vabbè, cause forza maggiore, un po' l'estate, un po' ultimamente. Io e Agostino lo ripetiamo sempre, fare una versione acustica dei pezzi elettrici o presunti tali è molto difficile, è molto complessa, è molto ardua. Bisogna ricostruire, reinventare veramente il pezzo. E quindi è positivo al 100%, è una nuova prova praticamente. È uno stimolo per non fermarsi mai. È sempre il solito discorso dell'orizzonte infinito. Esattamente. Sì, è vero. Io vi porto dei saluti. Ecco. È arrivato un sms qui, dice: un saluto alle ragazze con il simpaticissimo accento toscano da Silvano, basso della Wild Shooter Band. Wow! Questo pezzo, si riferisce al pezzo Sola ma Grande, è molto carino. È chiaro che per me la linea di Stefania Brugnoni è azzeccatissima ed è la colla naturale che in un brano non può mancare. Grazie. O casca tutto. Ciao ragazze, ciao Maurizio, grande come sempre. Ciao, grazie mille, grazie. Ah, diceva Alberto che la Wild Shit Band, Maurizio, è il gruppo di Roma che ci siamo, che abbiamo avuto qui in studio ancora tanto tempo fa, quindi lo salutiamo caramente. Te lo ricordi, Maurizio? Sì, me lo ricordo, me lo ricordo esattamente. Avete colpito anche questa band, con questa esecuzione soprattutto. Questa tua esecuzione alla batteria ha dato un certo nesso alle cose. Vi facciamo un omaggio allora? Dai, facciamo un omaggio. Roma, Roma, Roma, core d'sta città. Da dove è stato fuori questo accento romano tuo? No, perché dopo che siamo state a Roma siamo state contagiate dall'accento romano. Però magari li incontreremo. Chi ne sappiamo, domani in un tour o in queste occasioni dove... Certo. Un altro salutone a voi tutti da un collega di RCS, una radio della provincia di Verona, che tra l'altro sarà qui domani sera per uno special sulla musica rock, cioè Gianluca. Vi dice un salutone a tutti, ci vediamo domani sera, complimenti alle simpaticissime misteriche. Ciao Gianluca. Ciao Gianluca. Ecco, e poi insomma vi ricordo a questo punto il nostro numero, se volete mandare gli sms, che è il 346 23 20 033. Se invece volete chiamare qui in studio, vi ricordo lo 049 875 6423. Questa è Blu Radio Veneto, questa è la voce di Agostino e con Maurizio. La scaletta, scusami Agostino, la scaletta te lo dice lui il pezzo del disco che adesso va in onda, ti preoccupare. Perché caro Agostino, praticamente non si ricordava più che pezzo aveva scelto dal disco, era così. L'ordine, assolutamente l'ordine. Diciamo che è un po' colpa mia. Sì. Come mai? Ah, è colpa sua? No! È il titolo del pezzo. Ah, esatto. Era una battuta, era assolutamente una battuta. Va bene, credete ragazzi, volete fare un po' di pausa, volete suonare ancora dal vivo, come volete voi, scegliete. Mettiamo break. Pausa. Break pausa, sì. Va bene. Allora, è un po' colpa mia, vi ricordo, queste sono le misteriche con Tempismi Imperfetti qui a Blu Radio Veneto. Mi hai trovato in un rimpianto di chi non c'era già più. Mi è bastato uno sguardo, ecco sei tu, sei solo tu. Eri chiusa nel dolore, ho scavato dentro te. Sei sbocciata come un fiore, dentro di me, dentro di te. Non stupirti se ho paura, per me, se ripenso ad ogni ora, mi riempivi un po' di te. Chi ti ama nella rabbia, con il tempo capirà. E chi ti ama nella nebbia, nel tuo cuore esploderà. E adesso sguardo a una parola, dire che, dire che ho deciso nel silenzio, senza dirti mai né se, di lasciarti in mezzo al vento, chissà che, chissà che. Radio Sera. Blu Radio Sera. Dobbiamo parlare di questo pezzo che mi ha interessato molto. Innanzitutto un pezzo molto coraggioso come costruzione. Visto che è partito da te l'idea, Stefania, la nostra bassista, un bel basso, fammi vedere, è un bel basso, un Fender, c'è poco da fare. Fender Jazz. Fender Jazz. L'idea di questa voce lirica giapponese, che suona anche il pianoforte sta ragazza. L'idea è stata tua e volevi assolutamente questo pianismo e questa voce lirica. Perché? Vabbè, come ha detto prima Monia, sono canzoni tutte autobiografiche. Questo pezzo l'ho buttato giù all'inizio perché era un periodo un po' particolare dove stavo un po' male. Ce lo sai perfettamente. Insomma. E quindi volevo che appunto questo pezzo avesse tutto il, cioè trasmettesse allo spettatore tutto il dolore che potevo sentire in quel momento. Quindi cosa c'è di più struggente di un pianoforte? Cosa c'è di più struggente di una voce lirica in sottofondo che comunque ti porta questo senso di malinconia, no? Sì, esatto. E tutto il pezzo, quindi quando esplode nel ritornello che ti porta un attimo di... sì, c'è la voce di Monica che dà energia al pezzo. Straziante, direi. Quindi straziante, questa voce straziante, sottofondo come voce lirica. Tra l'altro voglio ringraziare, anzi vogliamo ringraziare Mayuko Iwasaki, che è la voce lirica di questa canzone, che ha collaborato con noi a questo CD e anche al piano mm. che ha arrangiato appunto il pezzo del piano, l'ha arrangiato lei, e appunto vogliamo ringraziare Mayuko Iwasaki. E poi va bene, la collaborazione anche delle ragazze, hanno messo il suo, come Manuela Galasso ha fatto questi assoli molto lisergici, sì. Molto lisergici, molto, Manuela molto, visto che sei qua, molto belli. Sei qua vicino, adesso mi spieghi questi assoli lisergici che hai fatto. Sì, viaggi miei lisergici nella... No, niente, mi sono lasciata andare il più possibile su questa canzone. Ho faticato un po' a sentirla mia, però ho cercato di metterci energia più possibile, soprattutto nei pezzi distorti, cioè quando entro con le distorsioni, con l'arrangiamento di chitarra, ho cercato di incastrarmi nel miglior modo possibile in un pezzo del genere dove inizialmente non sapevo come e dove collocarmi, invece poi mi ci sono collocata bene, come prezzemolo, insomma. Io sono ovunque, ci devo sempre mettere lo zampino. E questo pianismo, secondo me, non so se siete d'accordo, mi ricorda Anthony and the Jones dal punto di vista maschile. Chiaramente c'è la ragazza qua, quindi dal punto di vista femminile, ma Anthony and the Jones ha queste prerogative. Bella associazione, sì. Anthony, ha queste prerogative, ha questa cadenza, questa drammaticità nel suonare, nel cantare, nell'esprimersi. E sta ragazza ha dato questa visione, questa visione di colore, un colore oscuro, un colore tenebroso, un colore malinconico. Ma infatti è quello proprio, appunto, questo è il messaggio che si voleva trasmettere. Beh, vogliamo ringraziare anche gli altri che hanno collaborato, sia a questa canzone, come abbiamo già fatto con Mayuko Iwasaki, sia ad altri artisti che hanno collaborato a questo CD. Sì, ringraziamo Luca Brunelli Felicetti che ha arrangiato le percussioni in Pirati e Fantasmi, e Beatrice Riscalin che ha fatto il violino, anzi molteplici violini in Pirati e Fantasmi sempre. E poi vogliamo ringraziare due coristi maschili stavolta che abbiamo deciso di fare anche noi. Ci sono cantanti che hanno le coriste, noi abbiamo i coristi. Federico Lombardi in Pirati e Fantasmi e Alessandro Pifferi. Avete citato spesso e volentieri Pirati Fantasmi, che poi sentiremo. Perché? Perché è un pezzo molto indicativo di una tendenza, di un disco, di un pezzo al di fuori del limite vostro, molto folk, molto complicato, ma nel senso positivo del termine. Poi quando sarà il momento ne parleremo, lo allargheremo come si conviene al pezzo, che è molto bello, che era il singolo che fra me, che Alberto ed io avevamo scelto, o questo, o Tempismi Imperfetti. Abbiamo scelto Tempismi Imperfetti, ma anche Pirati e Fantasmi. Dava molto bene, secondo me, era molto indicativo di un certo genere, di un certo colore, di una certa ricerca al di fuori del rock vero e proprio. Ho trovato qualcuno che la pensa come voi, è da Parma e dice: ciao Agostino, ha scritto nella mia pagina di Facebook e dice: ciao Agostino, ci sono, sta ascoltando, queste sono pazze. Grazie. Si chiama Paolo ed è da Reggio Emilia, da Rolo, Reggio Emilia. Ottimo complimento, grazie Paolo. Ti salutiamo, ciao. Ciao Paolo. E poi questo preciso istante siete ascoltate anche in Brasile dalla Marzia, che è una nostra fedele ascoltatrice, ci ascolta sempre, insomma. Grande, ciao. Una capatina la faremo volentieri. Ciao Marzia. Sì, noi pur di girare andremo ovunque. Brasile poi. Adesso vive a Rio de Janeiro, comunque. Ecco, lo volevo dire, sono già lì con la mente. Possibilità di ospitarci, mica no, eh? Suoniamo, dai, forza, suoniamo. Beh, altro pezzo dal vivo, altro giro, altra corsa. Scappiamo ora. Un inno a non fermarsi mai. Ok. Braccio che hai voluto dare, Monia. No, per la chiusura. Il direttore d'orchestra che è lei. Insomma, lei è la voce, e parla, e canta, e dirige l'orchestra. Sei il fantotum. Sono il fantotum della città. È un altro pezzo molto complicato. Sembra semplice, ma per niente semplice. Un sacco di stop and go, un sacco di ritmi. Adesso mi rifate il pezzo di Manuela. La risposta di Stefania e la tua risposta alla batteria, un trio perfetto. Adesso me lo rifate prima del finale con la voce sua. Vai, allora parte il finale. Io. mancava il tuo grido però al finale ci stava benissimo. Allora, io dovevi farlo, io voglio. Tutto dal vivo, è tutto in diretta, 22.07. E Paolo tiene a precisare che il suo era un complimento, è un rocchettaro anche lui, insomma, mi fa i complimenti. L'avevamo capito, grazie. Non avevamo frainteso, abbiamo capito, grazie. Allora, 22.07, Blu Radio Veneto, con Maurizio Calzavara e con Agostino, è stato scritto per proporvi questa musica rock da queste quattro ragazze toscanacce, no, ma nel senso buono, però nel senso che sono grintosissime, hanno le idee ben chiare su quello che vogliono fare con la loro musica, insomma. Poi tra l'altro avete appena detto che c'è già un secondo disco in arrivo, o lo sì, state facendo? lo stiamo costruendo, insomma. Però voi venite dalle cover. Sì, noi siamo nate come rock cover band. Cover di cosa? Cover, allora, inizialmente siamo partite con un progetto dove portavamo tutte canzoni cantate da donne. E cioè? Inizialmente sia inglese che italiano. Esatto, quindi Janis Joplin, Gianna Nannini, Joan Jett, eccetera eccetera, insomma. Poi dopo, purtroppo, diciamo che le donne che hanno fatto la storia del rock si contano un po' sulle dita, nel senso che... Però sono le preferite di Maurizio. Beh... No, oltre a questo poi abbiamo mirato più sul rock italiano. Sì, abbiamo iniziato, poi abbiamo deciso, dato che comunque ci sono tantissime band al giorno d'oggi che fanno, pur essendo italiane, fanno tutto rock inglese. Ci sono band che pubblicano anche il loro album in inglese. Questa cosa la concepisco un po' poco, nel senso la condivido un po' poco, perché l'Italia ha bisogno di nuova musica italiana. E quindi abbiamo iniziato prima con le cover ad orientarle tutte in italiano, sia maschili che femminili. Quindi abbiamo mantenuto qualcosa di Gianna Nannini, sento Janis Joplin, Me and Bobby McGee sotto. E poi abbiamo spaziato da Vasco a Ligabue, abbiamo riarrangiato canzoni come Il chitarrista di Ivan Graziani, Contessa, The Decibel, quindi insomma abbiamo un po'... Una curiosità mia personale, come avete fatto a riarrangiare un pezzo molto difficile, molto complicato come Il chitarrista, che è ad hoc solo di Ivan Graziani? Dai. Perché c'hanno la chitarrista bomba e non lo vogliono dire. Ah, c'è l'idea, no? Scherzo, ovviamente. Perché non approcciarsi alla musica di Ivan Graziani non è mica semplice, no. Lui era bravissimo a suonare la chitarra, un genio, un maestro, sì, in assoluto. Noi lo apprezziamo tantissimo e niente, ci siamo approcciati con questa cover molto bene, ci piace un sacco, l'abbiamo fatta nostra. Beh, diciamo che è iniziato tutto per scherzo, nel senso che prima la facevamo nello stile di Ivan Graziani, sì, poi una sera sempre in sala prove, quando siamo un po' nel periodo un po' pazzo, ha preso il sopravvento, ha iniziato, sì, Manuela con la chitarra a pestare un pochettino di più. E visto che Manuela qui presente, adesso mi fai il giro un secondo del chitarrista, te lo ricordo? Ah! Un secondo. Dai, Manu. Non ricordo, oddio non mi ricordo. Beh, ora quando viene a mente io la faccio, ecco. Quindi l'idea è partita da quello, dalla Manuela, che voleva ricordare Ivan Graziani a suo modo, a sua maniera. Perché tutti fanno... Eccolo qua. Vai. Signore, è stata una svista, più un occhio di riguardo per il tuo chitarrista. Signore, se lanci uno strale, sbaglia mira per favore, non farmi del male. Te lo giuro sulla ghizzo, io non l'ho fatta apposta. Perciò, signore, è stata una svista, abbi un occhio di riguardo per la mia bassista. Non so com'è, ma è accaduto. Lui è entrato nel bar con lei e si è seduto. Io ero lì, la sua carica sessuale si espandeva nel locale ed io di desiderio stavo male, così mi sono ginocchio di riguardo per la mia pazienza. E le sue cose hanno creato in una notte non quel giorno l'ho bruciato. Siete state bravissime, pezzo grazie. Difficilissimo che avete fatto a vostra maniera, bellissimo, sono grazie. Molto bellissimo. Ancora un saluto dalla Toscana questa volta, e cioè da Rosignano Solvay in provincia di Livorno. E dice Tiziana Flavioni che vi saluta e vi sta ascoltando. Ciao, ciao Tiziana, ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao. Bene, allora Maurizio. Allora, dopo questo pezzo straordinario di... Però io di ne approfitterei, dimmi. Ti interrompo subito, visto che parlavamo di cover. Sì, c'era in programma un'altra. No, io volevo allargarmi nel senso... Dopo. Io volevo allargarmi nel senso di chiedere ad ognuna di loro i loro gusti nei momenti liberi, oppure se si vogliono portare i famosi tre dischi nell'isola deserta, cosa si porterebbero? Che ne dici? Ok, facciamo il giochetto. Una cosa importante: non si può copiare assolutamente. Ognuno deve scegliere i propri tre. È solo per capire un po' i vostri gusti, insomma. Chi comincia? La voce? Vai, non... voce. Allora, tre artisti, tre CD che mi porterei nell'isola. Mm-hmm. Gianna Nannini. Cosa? L'album Profumo. Profumo. Queen. Wow. Quelli, non mi dite di sceglierli perché... Ma ci sarà una canzone che ti piace, che non so in particolar modo? Sono belle tutte. Alla fine, dalle più classiche come We Are The Champion, Show Must Go On, l'hai azzeccata. E il terzo, qualcosa di classico. Sì? Beethoven. Wow. Questa non me l'aspettavo. Sono un ex pianista. Chi comincia? Chi continua? Cioè? Loro sono ancora indecise, quindi vado io, anche se non so benissimo. No, io ascolto un po' di tutto. Su un'isola deserta mi porterei qualcosa di Vinicio Capossela, alla grande. Ultimamente Negrita, anche se sono molto più recenti, ma secondo me tengano attualmente bene alta la bandiera italiana nel rock. E come terzo Janis, la mitica Janis Joplin. Qualcosa di Janis, indubbiamente. Anch'io spazio tantissimo, vado veramente in grande. Come fermarsi? Ogni uomo è un uomo ed ogni uomo è solo quello che scoprirai seguendo le distanze su di me. Grandissimi Negrita. Che si ferma più, Maurizio. Vai. Bisogna ammettere che siamo in minoranza stasera. Sì, indubbiamente. Non ho un gruppo in particolare che preferisco. Posso dire, nel momento attuale sono, come dicevo prima, alla continua ricerca di cose nuove. Qualcosa di Sigur Rós, un gruppo islandese che è molto molto interiore, veramente, a livello di natura parlo proprio. Qualcosa di Satie. Ah, però sei andato sul classico, anche, il Novecento. Sì, e non mi farei mancare mai il Bolero di Ravel, mai. Mai. Stefania, tocca a te. Io sono un po' più retro rispetto a Simona. Io adoro da morire la musica anni 70. E la scoperta della musica elettrica. E quindi ai tempi mi... Stefania, tempi... non mentire, di veramente quello che ascolti. Lo sto dicendo. È meglio di no. È meglio di che non lo dice. Diciamo che mi piace tutta la musica anni 70, americana e inglese. Cosa americana? Dai, dalle Zeppelin, Deep Purple, Pink Floyd, tutta la musica anni 70, gli inizi della musica anni 70 elettrica, quando c'erano Woodstock, Janis Joplin, appunto nominato prima Manuela Galasso, e che io adoro da impazzire. Però è le Zeppelin, magari le Zeppelin. No, non vuole avvicinarsi. Non vuole avvicinarsi ai mitici. Volevo dire che io collaboro attualmente con un gruppo cover che si chiamano i Black Dogs. Di caso. Sì, appunto. Facciamo una cover band delle Zeppelin, appunto, per questo adoro i Led Zeppelin. Facevo il Black Dogs. E voi in tu California come lo fai? Con la voce di Sandy, che originariamente era la voce di Sandy Denny. Going to California di Led Zeppelin, come la fai? Going to California, no, noi facciamo The Battle of Evermore. Ah, ho capito. Quella che fatta appunto il mandolino. Certo, perché, certo, certo. Ho dovuto impugnarlo per questo, poi da lì l'ho portato nelle misteriche. Eh beh, hai fatto bene. Hai fatto benissimo. È nato infatti così Pirati Fantasmi. Ma tu, Stefania, canti anche? Cantavo. Ma nella tua band, diciamo, di cover del Zeppelin canti anche? No, oh. Faccio la corista come in questo gruppo. Diamo i ruoli precisi. Specifichiamo. Si sa mai. Vuole il non si sa mai. Va bene, insomma, quindi siete ancora favorevoli al fatto di essere cover o mai continuate solo sulla vostra musica, solo ed esclusivamente sulla vostra musica? Beh, noi... Cioè nel momento, scusami se ti interrompo, Maria, ma nel momento che fate un concerto dal vivo, fate solo esclusivamente la vostra musica o portate anche qualcosa di... No, portiamo anche cover, continuiamo a portare cover. Sempre nell'ambito della musica rock, ovviamente. Insomma. Sì, italiano. Ultimamente facciamo solo cover e musica nostra in lingua italiana. E niente, i nostri concerti alterniamo. Sì, anche perché sono veramente pochi i locali che accettano band che fanno solo inediti. Quindi sì, vogliono sempre qualche cover. E quindi insomma, ma bisogna accontentare un po' tutti. Diciamo la verità, ci divertiamo anche, ci scateniamo oltre che sui nostri pezzi, soprattutto sulle cover. Poi è bello, insomma, vedere anche la gente che si scatena con pezzi conosciuti e rivisti da noi, fatti nostri. Certo. Quindi li rivisitate anche, insomma. Sì. È bello questo, bello, bene, veramente. No, parlavate prima di Contessa, ce l'avete nelle vostre corde, vero Contessa? Sì, la possiamo fare... dopo. Ormai perché la bassista ha già cambiato, ha già preso il mandolino. Ah. Cioè, no, veramente gli si è ristretto il basso. No, siccome avevo sentito parlare di quel pezzo prima, ho pensato che... Agostino, poi hanno cambiato, volevano fare un altro pezzo. La scaletta dal vivo è sempre così. Contessa l'hanno sostituita con un altro pezzo che forse tu non hai sentito, era una rivisitazione di un pezzo molto famoso, riproposto da un gruppo molto famoso recentemente. Esatto, è meraviglioso. Ah, che... è meraviglioso, sì. Però lo facciamo dopo perché ormai sta cercando di slargare un attimino il mandolino, ma non gli riesce. Cosa ci fate ascoltare adesso? Pirati e Fantasmi. Ok. Lontananza, uniti nel fato. chiaro di alleanza. Prendi il ponte, urlerai, noi non molleremo mai. La sfida sta nel mettersi nei guai. Preso il ponte, tu lo sai, noi non perderemo mai. Nell'oro spartiremo tra di noi. Penso a quel tipo rimasto solo col bottino, se aveva la vicino, se sentiva la lealtà. Questa è la storia di pirati assai stanchi che seguivano un sogno di gran libertà e fratellanza, oh, un cielo senza stella, rovinati da un patto che li ha persi per un forte una risata. Si tratta della vita, ed ecco che rompe una voce forte a pieno fiato. Andiamo ragazzi, seguitemi in un boato. Prendi il ponte, urlerai, noi non molleremo mai. La sfida sta nel mettersi nei guai. Preso il ponte, tu lo sai, noi non perderemo mai. Con loro spartiremo tra di noi. Sento che adesso risorgeremo con onore, se mettiamo l'anima. Che non ha mai fine se parliamo di realtà. Questa è la storia di un pirata fantasma che divide la sua vita qua e là con chi lo ascolta. Pezzo bellissimo, nella versione del disco un critico ha scritto un inizio medievale, ed era vero. Qua è un po' diverso, un po' più popular song che non che medieval song, secondo me. Soprattutto nelle tue percussioni hai dato una colorazione molto popolare, molto da non dico da tarantella, siamo un po' lontani, però da musica da movimento, quella sì. Pezzo molto bello, molto diverso dall'insieme degli altri pezzi. Come mai l'avete costruito così, l'avete inventato così? C'era il mandolino, c'era la chitarra, che Manuela non dava il tocco lisergico, si accompagnava, si dondolava stavolta. Beh, facciamo parlare Stefania che l'ha inventata. L'idea è partita da lei. L'idea dei violini. No, l'idea è partita da Manuela. Era un pezzo che è stato in un cassetto per anni. E un giorno mi chiama e mi fa: senti, io vorrei tanto... sono anni che mi piacerebbe musicare questo pezzo, ho scritto l'inizio e mi piacerebbe continuarlo, però non... manca qualcosa. Manca qualcosa, sì, che mi disse, ma ci vuoi provare tu? Ho fatto, va bene, però poi non mi rimproverai di cosa ne esce fuori. E sicché un giorno, mentre ero al lavoro, così per caso, all'improvviso mi è venuto in mente questo ritornello e questa storia di questi pirati, perché l'ha iniziato con questi pirati fantasmi che, insomma, all'inizio non avevano una storia, erano in fondo al mare, che non si sapeva bene cosa facevano. E da lì mi sono praticamente inventata questo tradimento, no? Di questo loro compagno che prende questo oro, che... Anche questa è una canzone autobiografica, riferita a fatti nostri personali, che però ovviamente abbiamo trasformati in pirati e fantasmi. vabbè, ogni canzone c'ha la sua interpretazione, poi in base anche a chi l'ascolta ci si rispecchia. Sono tutte, comunque, tutte canzoni che, se messe in vari contesti, comunque chiunque ci si può ritrovare se ascoltate in un... E l'avete certo organizzata periodo. Come pezzo folk, perché nel disco abbiamo, è un pezzo, sì, è folk, stato, leggermente folk. È stato, siccome mi piace sperimentare, certo. Anche qui, come un po' colpa mia, è stata la voce lirica al pianoforte, certo. E ho detto, ma perché no, ma perché non facciamo un pezzo un po' più... Sì, è la folcheggiante, Emanuela, cosa dici? No, è stato fortemente voluto così, fancheggiante, perché, sì, scusa, fancheggiante, molto celtico, molto soft, perché, niente, l'idea dei violini era tanto che c'era, già come nascita era già nato, le prime strofe, quelle già nel cassetto, erano già con un'idea ben precisa di farlo un po' medievale, un po' irlandese, un po' celtico, e poi niente, collaborando con Stefania è venuta fuori questa cosa. Ci tengo perché è un pezzo a cui personalmente tengo tantissimo, l'ho adorato, lo continuo ad adorarlo. Stefania ovviamente ci ha messo del suo, l'abbiamo sviluppata, mi ha aiutato a svilupparla, ha avuto un sacco di intuizioni buone, e niente, per quanto mi riguarda è un pezzo a cui sono affezionatissima e sono contenta che sia venuta fuori proprio così come avrei sempre voluto immaginarmelo. Qui chiaramente non ci sono i violini nella versione acustica di stasera, in diretta c'è le percussioni che è mancato anche il cannone. Simone Tudali in un certo senso, come ho detto prima, molto da popola, cioè la musica popolare, la musica a movimento, fai danzare, fai ballare la gente giocando sulle percussioni. E tra l'altro è una delle altre collaborazioni di cui si accennava prima, che sto facendo veramente di recente, musica popolare, dove, ecco, una cosa che mi viene naturale di raccontare è che anche nella giornata più faticosa, più triste che può essere, suoni quella musica e veramente ridi e ti trovi a ballare veramente. E posso dire questo, dimmi, sì. E posso dire questo è un pezzo che non si conclude, può andare avanti, vero, all'infinito, senza nessun problema. È vero. E si balla mentre si suona. Esattamente. Vero. Io sono curioso, nel senso che vi chiedo se siete disposti a rispondere, ovviamente, ma insomma, il disco che verrà segue questa linea o è qualcosa di completamente diverso? Possiamo qualcosa? Solo darti un'anticipazione. Abbiamo musicato Posso scrivere versi di Pablo Neruda. Però tutto il disco è inerente a una canzone. Esatto, poi vi ha influenzato Pablo Neruda nella musica, nella stesura della musica? No. Solo il verso, no. Esatto. I versi. Solo, avete ripreso solo i versi di Pablo Neruda, poi la musica è vostra. Esatto, sì. Ok. Benissimo. Va bene, sono le 22:30 in questo preciso istante. Io vi rubo, vediamo, 44 secondi, va bene? Ok. Svolta. E cantiamo le tue mezze parole. Ciao, sono Don Francesco Farronato. Sono parroco di una piccola parrocchia di Padova, San Prosdocimo. Vi aspetto al sabato alle 8:15 del mattino e alla domenica alle 7 sempre del mattino per una rubrica religiosa che si intitola Briciole povere di un pane di festa. È un tentativo di ricamare parole piccole intorno alla parola grande del Vangelo della domenica. Vi aspetto. Blu Radio. SMS 346 23 20 033. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Allora, sarebbe venuto il momento di salutarci. Beh, invece abbiamo deciso di no. E l'estate porta anche questo. Poi porta siamo questa. In minoranza, non possiamo. Quindi dobbiamo morire per forza di cosa, lasciare lo spazio a queste... Poi sono venuti dalla Toscana. Queste quattro pazze scatenate, rocchettare, toscanace, devo aggiungere ancora. Sì. Guardate che sto scherzando, ovviamente, insomma, siete simpaticissime. Allora io le ricordo anche per l'ennesima volta. Stefania Brugnoni al basso. Presente. La Simona Tarantino alla batteria. Ci sono. Monia Mossi alla voce. Sono in bagno. Emanuela Gallasso alla chitarra. Presentissima. Ecco, sono le misteriche, giusto? Sì. Ecco, cantano in italiano comunque, anche sì. Se non avete capito, insomma, fanno della loro musica rock, il loro pane, insomma. Volevamo ricordare, se ci dai, certo, se me lo permetti, insomma, dove può essere comprato il nostro album. Sì, ma noi te lo chiedevamo sempre comunque alla fine. Però comunque lo possiamo dire adesso. Vedi, io sono telepatica. Puoi comunque dirlo adesso, sì. Beh, sì, allora, sì, il nostro album si trova su tutte le piattaforme digitali, quindi iTunes, Nokia, Vodafone, chi più ne ha più ne metta. Sì, ma è più bello se ce lo richiedete a noi, che ve lo mandiamo fisico, dove ci siamo, c'è la copertina in cartone, c'è le nostre faccione sulla copertina. E poi ovviamente i gadget. Che ce lo richiedete, l'album, potete richiedercelo al nostro indirizzo mail misteriche@yahoo.it. Oppure andando su Facebook, ci mandate un messaggio privato su Misteriche, pagina ufficiale su Facebook, e lasciate il recapito, insomma, ci contattate e noi vi diamo il CD fisico. Abbiamo anche il MySpace e altri siti un attimino più, diciamo, siti personali, quindi Reverbenation. Sì, vabbè, comunque basta che digitano Misteriche, fa lo spelling? M-I-S-S T E R Y K E. Basta digitarlo su Google o qualsiasi motore di ricerca e uscirà fuori tutto, insomma, YouTube, anche video, almeno chi ci ha dato delle pazze può appurare la cosa. E, insomma. Sì, sì, ci trovate lì. E il merchandising cosa consisterebbe? Lo svegliamo o lasciamo nascosta la cosa? Cosa avete? No, sono maggi. Beh, allora, sono maggi. Allora, per i bambini, però anche per i grandi, perché ce l'hanno chiesto anche i grandi, ma anche per i bambini. Abbiamo il fischietto oppure la penna, magliette, beh, su richiesta possiamo fare le delle felpe, delle maglie, eccetera eccetera. Ah, quindi oltretutto proprio su Facebook abbiamo anche Misteriche sezione il calzino, che è il nostro fans club. Avete anche un fans club? Sì. Sì, salutiamo Simone, è gentilissimo che ci ha fatto questa cosa. E comunque il vostro CD si può ascoltare, acquistare anche nei vostri concerti. Certo, certo, richiedetecelo sia dal vivo che, va bene, nel web, ci mandate una mail e noi ve lo facciamo avere. Il prossimo concerto quando è? Ottobre. Il 6 ottobre. E poi? Diciamo pure dove? Il 6 ottobre a Cascina. Al Clama Pub a Cascina, ore 22:30. Ci vediamo in casa, in provincia di Pisa. E poi? Altre date? Ne avete? Beh, stiamo stilando adesso giù il programma per il 2013, quindi anche perché molti locali riaprono adesso, sì, perché d'estate è vero. Difficile suonare al chiuso. È vero. Comunque sicuramente in Toscana faremo qualcosa e 5-6 date credo di si fermeranno subito a ottobre-novembre. E poi niente, stiamo aspettando le date anche, insomma, per l'Italia, diciamo. Intanto continuiamo la promozione del CD, stiamo facendo, insomma, il giro delle varie radio, siamo ospiti un po' dappertutto e niente. Prossima radio? E prossima radio quale sarà? Oddio. No, so che recentemente siete state in un'altra radio, insomma. Siamo state al 4 agosto a Radio Incontro. In Toscana, sì. Vabbè. È stato un programma che è durato più di 3 ore, un sabato pomeriggio, quindi ci siamo divertite tantissimo, sì. L'abbiamo stravolto lo studio, poveraccio. Non ma è dai, che non ci siamo credo meglio, siamo state ospiti in parecchie radio, qui siamo state più buone, più brave. Sì, grazie, più pacate. Come siete brave, siamo buone. State dove siamo? Radio Delta, Radio Vabbè, Alfa, siamo state anche Iso Radio in Puglia. Ah, siamo andate su Puglia. Radio Peter Pan, boh, un sacco. Insomma, avete girato Radio un sacco. Radio Alfa, sì, sì, sì. Oddio, ce n'è talmente tante che Radio Toscana. Radio Toscana, Radio Incontro, sì, sì. Quindi siete già, diciamo, esperti di radio, insomma. Ma a noi ci piace. Ci piace. Ci piace tantissimo stare in radio. Ma non dai, non avevamo via capito. Dobbiamo sottolineare che il disco è autoprodotto assolutamente da voi. Abbiamo citato il fonico che ha dato una mano. O siete stati voi fonici? No, siamo stati noi fonici. È uscito, diciamo, bene che il disco. Abbiamo avuto una collaborazione, cioè c'è stato parecchio vicino un nostro collaboratore che è Luca Brunelli Felicetti, che abbiamo ci citato ha un po' prima. Aiutato nel mettere a punto alcune cose tecniche come la batteria, essendo comunque un insegnante di batteria. Quindi cioè, ti ha dato una mano. Ci ha dato una mano per quanto riguarda la batteria, che è più difficile da microfonare, farla passare nel mix e tutto. Poi anche altre persone comunque ci hanno dato il loro contributo, dando dei consigli. il mastering, il mixaggio è stato fatto in studio comunque, non l'abbiamo fatto noi, l'abbiamo fatto a Livorno a Percorsi Musicali. E niente, però per tutto il resto abbiamo comunque fatto per conto nostro. Quindi senti, autoprodotti al 100%. Autoprodotto quasi al 100%, diciamo 99%. Il prossimo disco sarà autoprodotto o vi sarà una specie di produttore? Aspettiamo proposte. Aspettiamo proposte. Beh, sicuramente abbiamo deciso questa volta di farlo interamente in sala di registrazione. Sì, questo è sicuro. Sicurissimo, abbiamo anche in mente dove. Però ancora tutto da iniziare, quindi preferiamo mantenere il silenzio. Seguiteci. Così scoprirete man mano chi vivrà vedrà. Voi stateci accanto, che ci fa tanto piacere, e vediamo cosa ne viene fuori. Anche noi vi seguiamo, proprio in questo momento vi seguiamo di sicuro dal vivo. Cosa ci fate sentire? Cosa? Oddio. Oddio, vi ho trovato. Allora, sempre per il discorso delle cover, facciamo. C'è Stefania che sta cercando di risistemare il basso. Sì, ci eravamo rilassate qui. Sì, Stefania aveva già detto: sì, vabbè, dai, ormai. È un Fender. Il basso deve essere trattato in una certa maniera. Il Fender deve essere trattato in una certa maniera. Sì. Fender Jazz Marcus Miller. Ci tiene. Appunto, facciamo meraviglioso. Sì, attacchiamo un attimino il tutto. Siamo assolutamente in diretta, quindi come potete sapere e sentire. Ok, siete meraviglioso. Pronti? Blu Radio Veneto, il Veneto come non l'hai mai sentito. È vero, credete, mi è accaduto di notte su di un ponte, guardando l'acqua scura, con la dannata voglia di fare un tuffo giù. D'un tratto qualcuno alle mie spalle, forse un angelo vestito da passante, mi portò via dicendomi così: meraviglioso, ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso, meraviglioso. Perfino il tuo dolore potrà guarire poi, meraviglioso. Ma guarda intorno a te che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare. Tu dici non ho niente, ti sembra niente il sole, la vita, l'amore. Meraviglioso il bene di una donna che ama solo te. Meraviglioso la luce di un mattino, l'abbraccio di un amico, il viso di un bambino. Meraviglioso. Ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare. Tu dici non ho niente, ti sembra niente il sole, la vita, l'amore. Meraviglioso il bene di una donna che ama solo te. Meraviglioso la notte era finita e ti sentivo ancora sapore della vita. Meraviglioso, meraviglioso, meraviglioso, meraviglioso, meraviglioso. Bella la versione, ricordavamo che il primo, prima versione era la versione dell'originale di Domenico Modugno, poi Negra Maro l'hanno rifatta e hanno rifatto anche le nostre ragazze nella loro versione totalmente lontana da, giustamente da quella dei, dei Negra Maro. Sì, diciamo un pochino più spagnoleggiante. Sì, decisamente più spagnoleggiante, mentre i Negra Maro hanno calcato il discorso romantico di Modugno e poi l'hanno ampliato con la voce del leader dei Negra Maro, che è una voce molto particolare. Beh, hanno fatto credo gli ultimi 10 anni di storia della musica italiana a livello di band. Loro le vibrazioni, poi le vibrazioni purtroppo si sono un po' perse per strada, perché che bello, che meraviglioso, lo sai, all'inizio era stato censurato. Sì, l'avevo sentita, era stato censurato perché all'epoca si censurava tutto e la direzione della Rai aveva censurato il pezzo per un motivo, adesso non lo ricordo, ma c'era una frase. Fu anche una colonna sonora del film L'Angelo? Sì, mi pare di sì. Però poi Modugno lo riprese, ebbe un grande successo e poi dopo molti anni siete arrivate voi e l'avete ripreso anche voi, mi pare giusto. Eh sì. E va bene, sono le 22.42, io direi di fare ancora una pausa per voi, così vi riposate e poi ci prepariamo al gran finale. Gran finale rock, quello rock. Forte rock. Adesso avete scelto Inseguendo Me. Sì. La vogliamo ascoltare? Certo. Poi ci parlate di questa canzone. Signori e signori, a voi Inseguendo Me. Futuro, futuro, futuro, voglio dormire. Futuro, futuro, futuro, voglio morire. il volto della luna ed è soltanto mio. Raccolgo la mia testa che da anni mi divora. Piano voglio ripartire inseguendo me. Sogno e risogno una vita che mi ami un po'. Libero tutta la mia pazzia. La luna aspetta, mi rifarò. Sono su un palco, è la mia vita. Cerco uno sguardo e non scapperò. Futuro, futuro, futuro, fammi volare. Futuro, futuro, futuro, basta parlare. Futuro, futuro, futuro, futuro, futuro, futuro. Futuro, futuro, futuro, fammi volare. Futuro, futuro, futuro, basta parlare. Futuro, futuro, futuro, fammi volare. Futuro, futuro, futuro, basta parlare. Parlare. E io potrei stare qui ad ascoltarvi ancora se volete continuare, bravissime. Però un altro pezzettino potete farlo, sì, direi. Non, tu non hai visto, Agostino, Stefania come suonava il basso. Fammi quella solo che hai fatto, è una roba incredibile. Vai, vai. Proprio scatenata. Tutto. È la prima volta. Sei emozionata. È la prima volta, Agostino, che finiamo un pezzo da disco e attacchiamo subito un pezzo live senza nessuna interruzione. Dai, fate altri 30 secondi. Dai, vai, questo mantra rocchetta. Vai, vai. Come le ho addestrate bene. Futuro, futuro, futuro, futuro, futuro, futuro. Fammi volare. Futuro, futuro, futuro, basta parlare. Libero tutta la mia pazzia. L'avete cambiata questa finale. Assolutamente live, da sem sceso. Non era per niente scaletta. Abbiamo inventata, l'avete inventata all'ultimo secondo. Stefania è scatenata col basso, non ti sei più. Ale. Io volevo fare i complimenti anche a Manuela, perché parlavo adesso con Alberto. Mi sembri un po' la chitarra degli Shadows, te la ricordi? Te la ricordi? La chitarra! grazie. Il gruppo degli anni 60 praticamente, quindi insomma andiamo indietro con la storia del rock. Non era neanche nata là, sicuramente. Non so chi era. Nel 78. Appunto. La reincarnazione, dai. Va bene, 22:51, vogliamo ricordare ancora dove si può trovare il disco, il sito e quant'altro. Allora, il disco si può trovare in forma digitale e in forma fisica. Per quanto riguarda il digitale, su tutte le piattaforme, quindi iTunes e tutte... ci trovate in Giappone, in Francia, in Germania, ovunque, siamo ovunque. Ma soprattutto in Italia? Esattamente. E per quanto riguarda il fisico, basta mandarci un'email a misteriche@yahoo.it o contattarci sul nostro Facebook chiedendoci appunto il CD, dandoci ovviamente il loro indirizzo, oppure anche alle nostre serate, dato che comunque qualche copia ce la portiamo sempre dietro e quindi chi viene a sentirci può richiederci il CD. Benissimo, prossimo concerto ha detto in ottobre. Ottobre, 6 ottobre a Cascina, in provincia di Pisa, al Clama Pub. Un ultimo saluto da parte di Molly Sbrana. Ciao Molly! Ciao, ciao Molly! Ciao. Sta mettendo un mi piace un po' dappertutto perché Alberto ha caricato un po' di vostre foto sul sito e sulla pagina di Facebook. Quindi... siamo distrutte stasera! Grande Molly! E grande Alberto che vi sta facendo pubblicità visiva. Sì. Grazie Alberto! Va bene, Maurizio. Lascio a te. Sì, purtroppo abbiamo finito questa cavalcata. A me quella, quel mantra rocchettaro che non finiva mai, a me piaceva particolarmente. Lo puoi sentire ancora? Sì, fammi sentire un'altra volta questo mantra rocchettaro. Vai, vai col basso, vai, vai. Non puoi più pretendere di avere tutti quanti attorno a te. Non puoi più trattare i tuoi amanti come fossero figlie. Vuoi solo le cose che non hai. Parli delle cose che non sai. Cerchi di giocare ma non puoi. Pensi solamente ai fatti tuoi. Chi sei? Contessa, tu non sei più la stessa. Vuoi che io rimanga nel tuo letto per poi sbattermi su e giù? Non ti lamentare se domani non ti cercheremo più. Ma vorrei soltanto averti qui. Sei accattivante già così. Ti difendi con il DDT. Fai pesare troppo quei tuoi sì. Chi sei? Contessa, tu non sei più la stessa. Pensi che ogni cosa di concreto sia da riferire a te. Fai la misteriosa per nascondere un segreto che non c'è. Ma nel tuo castello come va? Vedi la tua vecchia novità? Non c'è neanche tu la verità. Vendi a caro prezzo la realtà. Ma nel tuo castello come va? Vivi la tua vecchia nobiltà. Non sei neanche tu la verità. Vendi a caro prezzo la realtà. Chi sei? Contessa? a parte che ti mancavano gli occhiali bianchi di Enrico, Monia, ma insomma, posso farti una domanda, Monia? Sì, dimmi. Come hai fatto per queste circa due ore stare seduta sulla sedia fino a questo momento e adesso ti sei scatenata? ti sei contenuta, proprio è stata una cosa dura, vero? Sì. Non ho capito, cosa ho fatto cadere? Cosa hai fatto cadere? Non lo so, se lo sai tu, io lo, non ci sono. Ho buttato giù tutto. Era contessa, penso, dei decibel di molti anni fa, ma... Beh, è la voce di Enrico Ruggeri. Enrico Ruggeri, del gruppo di Enrico Ruggeri, decibel. Sì. È stato un gran finale. Beh, adesso dobbiamo concludere, care ragazze. Noi potremmo continuare ancora, però sai, i tempi sono quelli, poi. Vero Agostino? Beh, certo. Posso dire... Dimmi. In questo momento sì, la simonata dell'ultima ora. Dilla, dai. No, ci ho avuto ora l'illuminazione. Il palco è il nostro tapirulan che facciamo andare a mille quando ci siamo sopra. Basta, con questo chiudiamo perché lei a una certa ora, sai, i bimbi devono andare a letto. Beh, ringraziamo chi è la voi. Più calma? Chi è la più calma del gruppo? Nel palco almeno. Che sguardi. Non si sa. Nessuna. No. Saluto da Mina Carcione. Ciao Mina! Ciao Mina! Non mi avete risposto però. No. E non c'è quella. Ma forse lei, ma semplicemente perché è obbligata a star seduta. Non quindi. Sì, ma anche da lì dietro ogni tanto si fa sentire, si fa vedere. Sì, sì. E poi ancora Michele Gandini, Michelle Davis e Les Brucali vi stanno ascoltando. Vi ciao ragazzi! Ciao a tutti. Michele, ciao. Ciao. Bene, noi vi salutiamo adesso. Noi vi ringraziamo, siete stati ospitalissimi. Grazie. E ci siamo divertite tantissimo. Beh, insomma, qui a stare con voi. So che esce un secondo disco. Boh, se volete. Beh, volentieri. Volentieri, grazie. Assolutamente. Allora vi aspettiamo, insomma, qui a Blu Radio Veneto. Certo. Ciao dalle misteriche. Ciao. Aspetta, ciao. Dove vai? Adesso salutiamo. Allora si può salutare con calma. Via, ragazzi, un altro pezzo. Non so che sto scherzando. Sì, adesso facciamo un altro pezzo dal vivo. Ci salutiamo con l'ultima canzone, appunto, in acustico dal vivo, insomma, va bene? Cioè, veramente improvvisato. Vai, improvvisiamo. Aspetta un secondo che salutiamo. La improvvisate. Allora, Maurizio, io e te ci sentiamo anche domani sera con il programma, sì, la maratona rock. Sì, diciamo. La storia del rock con Gianluca. Con Gianluca e il ragazzo che non mi ricordo più Fabio, come si Fabio. Esatto, che sono mista. Pastore. Fabio Pastore che è il leader di Sword, un gruppo padovano. Un certo peso musicalmente parlando. Faremo la storia del rock, tre orette di musica di un certo tipo, non solamente i pezzi classici, ma cose un po' diverse, abbastanza sconosciute ma molto importanti per quindi la storia del rock. Niente live, ma assolutamente rock, comunque con la musica estrapolata dai CD, insomma, dai certo, dischi, certo. Con appunto con Gianluca e con da un'idea di mia, di Gianluca e anche sì, del nostro direttore artistico Alberto. È già stata l'anno scorso, abbiamo già fatto una prima puntata, ha avuto un buon successo, sono stati tutti contenti e abbiamo deciso di ripeterla in questo agosto caldissimo qui a Blu Radio Veneto. E quindi l'appuntamento è sempre alle ore 21 domani sera. Poi ancora giovedì, come di consueto in live, questa volta andremo ancora in Friuli con Elsa Martin, la sua musica un po' italiana, un po' dialettale, appunto friulana, e ci onorerà della sua presenza qui sempre alle ore 21 nel corso di Blu Radio Sera. Quindi un buon proseguimento all'ascolto dei programmi di Blu Radio Veneto che continuano con la nostra musica in non stop, però prima c'è l'ultimo saluto da parte di queste quattro, io lo ripeto, quattro simpatiche toscanacce scatenate e nonché misteriche. Ciao, allora proponiamo come saluto una cosa soft, Stupido Hotel. Allora, un grazie a Stefania Brugnoni. Al basso, io a basso perché sennò non mi sente niente. E poi ancora un grazie a Simona Tarantino alla batteria. Ciao a tutti, un saluto grande. Monia Mosti alla voce. Ciao. E Manuela Gallasso alla chitarra. Ciao ragazze. Buonanotte, ciao. Ciao. Ora che sono qui in questo stupido hotel. Non sei qui con me, tutto mi sembra inutile, tutto mi sembra com'è. Farmi la barba a uccidere, che differenza c'è? Hai già pronto il piano di recupero? Io vado preso, hai sempre ragione tu per il mio limite. Io non so stare solo, vivere insieme a me, basta aspettarmi uscire e prendermi con sé. Credi che sia facile, credi che sia semplice, vai a farti fottere, credi che sia una storia semplice, cielo senza nuvole. Sono qui nel supermarket di questo stupido hotel e tu non sei qui con me. Tutto mi sembra inutile, tutto mi sembra com'è. Telefonarti e uccidere, che differenza c'è? Basta che sia facile, basta che sia semplice, basta farsi fottere, basta che sia una storia semplice, cielo senza nuvole, un amore utile, sempre alla ricerca dov'è. Stefania Brugnoni alla batteria, Simona Tarantino alla chitarra, Manuela Galasso alla voce, e vi ringrazio a tutti, Monia Mossi. Basta che sia facile, basta che sia semplice, basta farsi fottere, basta che sia una storia semplice, cielo senza nuvole.